Torniamo subito in diretta su Onda Rossa e parliamo dell'iniziativa che avevamo preannunciato, iniziativa che si tiene a Torino dal titolo Qui non ce ne andiamo, no ai divieti di dimora. Un'iniziativa che è partita mercoledì scorso e che andrà avanti fino al 19 giugno, domenica, quindi parecchi giorni di iniziative, e che si occupano proprio del fatto del bando che è stato emesso dalla magistratura di Torino nei confronti di alcuni compagni sottoposti a divieto di dimora e che per questo motivo non possono risiedere a Torino, non possono continuare con le lotte. Di questo avevamo già parlato alcune settimane fa, oggi siamo in collegamento con un compagno proprio da Torino per un approfondimento e poi ci metteremo anche direttamente in ascolto con in collegamento in diretta con Radio Blackout per seguire anche noi un po' le iniziative. Sentiamo intanto se è stato stabilito il collegamento. Pronto? Pronto, ciao a tutti. Ciao, buongiorno. Allora, abbiamo un po' preannunciato l'iniziativa che riguarda appunto questi divieti di dimora e ci facciamo un po' una chiacchierata per capire un po' sia la situazione repressiva sia le iniziative di contrasto a quella che è appunto questa situazione. E se ti va, anche se ne abbiamo già parlato in precedenza, vorremmo un po' ricordare un po' di cronaca ai nostri ascoltatori, quindi se ti va intanto di fare un po', ricordare un po' cosa è successo a Torino rispetto a questi 12 divieti di dimora. Sì, ecco, allora, il 25 maggio scorso sono stati emessi 12 divieti di dimora ad altrettanti compagni e compagne per un'iniziativa contro la DISA. La DISA è una ditta che tra le altre cose forniva pasti al CIE di Torino e ad altri centri di reclusione per immigrati senza documenti. Questa iniziativa è dell'ottobre scorso, alcuni giorni prima di questa iniziativa di contrasto alla DISA dal CIE di Corso Brunelleschi di Torino, alcuni reclusi ci avevano fatto avere la notizia che nei pasti forniti dalla DISA avevano trovato dei vermi. Era stata quindi questa iniziativa presso la sede della DISA, in cui erano, oltre che diciamo contestare la fornitura di pasti, la collaborazione col centro di reclusione, erano stati riportati dei vermi alla DISA. Sono arrivati questi divieti di dimora il 25 maggio scorso, e i reati contestati sono quelli di violenza privata e deturpamento, quindi reati molto molto lievi. Nonostante la scarsa entità penale di questi reati, la procura ha richiesto 8 misure di arresti domiciliari e 4 obblighi di presentazione con le firme alla polizia giudiziaria, e il giudice ha invece deciso di fare tutto un pacchetto e dare a tutti e 12 un divieto di dimora dalla città di Torino, dando una motivazione esplicita che questa era l'unica misura che consentiva di poter allontanare i compagni dai contesti di lotta e quindi impedirgli di commettere nelle prossime settimane nuovi reati. Questo è proprio scritto nero su bianco sulle carte, e questo diciamo quello che è accaduto il 25 maggio scorso. Diciamo che questa operazione a bassa media intensità da parte del Tribunale di Torino è solo l'ultima di una serie ormai lunga. Ci sono state ormai diverse negli ultimi anni le inchieste che hanno portato a misure cautelari non detentive e che quindi con estrema facilità sono riuscite a mettere fuori gioco molti compagni e compagne dalla città, dalle lotte in corso, scombussolando anche poi un aspetto non secondario, le loro vite. Quindi persone, compagni che vivono qui ormai da anni si trovano all'improvviso a dover fare le valigie, a doversi trasferire non si sa bene dove, non si sa bene a far cosa. Certo, senti, ti volevo chiedere, abbiamo notato un po' in tutta Italia, non solo a Torino, anche se Torino diciamo che è particolarmente evidente questo fatto, tutto un proliferarsi di misure giudiziarie alternative al carcere, sia di misure alternative, quindi fogli di via, avvisi orali, sorveglianze speciali. Anche qui a Roma, ad esempio, molti compagni di diverse aree hanno ricevuto avvisi orali recentemente. Sembra proprio quasi una volontà di dare un segnale e distribuire un po' a pioggia queste misure per fare un attimino pressione. Ma anche, diciamo, un proliferare di misure alternative, dicevo, di natura giudiziaria, quindi che vengono date quindi da un giudice in un tribunale, quali gli arresti domiciliari, il divieto di dimora, l'obbligo di dimora, insomma tutte misure che stanno avendo una grande diffusione. Ecco, vorrei sapere se avete fatto delle considerazioni sulla funzione di queste misure, sugli effetti poi che producono, quindi in generale delle considerazioni su questo. Dunque, soffermandoci su Torino, non per voler indicare questa come una città centrale all'interno delle strategie repressive, ma semplicemente perché era una realtà che conosco meglio e quindi mi è più facile provare a fare dei ragionamenti sulla base di alcuni elementi che ho. Questo tipo di operazioni a bassa intensità che colpiscono reati penalmente poco rilevanti, ma che riescono a produrre degli effetti notevoli, diciamo che si adattano, è un abito che si confeziona, che si adatta molto bene al tipo di attività che si svolge soprattutto perlomeno in questo quadrante nord della città, tra Porta Palazzo e Barriera di Milano. Qui molte delle iniziative che ci sono iniziative che cercano di coinvolgere altre persone, costruendo dei percorsi di lotta contro gli sfratti, anche contro le retate, la militarizzazione dei quartieri, e che si basano su delle pratiche che, per essere anche per poter crescere e coinvolgere altre persone, sono pratiche di base, basilari, quindi un picchetto contro lo sfratto, un presidio, un contrasto, mettersi in mezzo mentre si assiste a delle tante retate che ci sono in strada, un'iniziativa di protesta come è stata quella di Ladisa. Quindi se possiamo dire, questo tipo di operazioni giudiziarie fatte di misure cautelari non detentive si adatta molto bene al tipo di attività che si svolge qui, e oltre a mettere al bando dei compagni, allontanare dei compagni dalla città, il tentativo non è anche troppo velato, è quello poi di mettere al bando delle pratiche. Se ne era parlato già qualche anno fa, quando c'era stata l'inchiesta grossa sugli sfratti, che si basava poi su, che aveva al suo centro il picchetto, no? Di fatto erano stati emessi 30 misure cautelari, in quel caso in carcere ai domiciliari o misure cautelari minori, costruendo un'inchiesta di questo tipo con quindi grossi effetti a livello cautelare attorno alla pratica del picchetto. Si era detto che il picchetto è un atto di violenza pubblica ufficiale perché impedisce agli ufficiali giudiziari di svolgere il proprio lavoro, e questo, diciamo, sostanzialmente senza neanche il bisogno di un conflitto esplicito, aperto, delle forze dell'ordine, non c'erano stati episodi di scontro fisico con le forze dell'ordine durante gli sfratti. Comunque la caratteristica del picchetto e questa violenza pubblica ufficiale che il picchetto rappresenterebbe era stata sufficiente in quel caso a mandare via un sacco di persone e a minare fortemente la pratica del picchetto, che è una pratica, come dire, storicamente usata in diversi contesti di lotta da sempre da chi resiste, da chi cerca di non far lavorare una trivella perché deve fare dei sondaggi che poi saranno preliminari a tutta un'altra serie di lavori, come in Val Susa, chi vuole provare a resistere a uno sfratto, a chi fa un blocco, una serrata in un luogo di lavoro. Quindi facendo un attimino questo parallelo, diciamo che oltre a mettere al bando dei compagni, queste iniziative stanno cercando, secondo noi, di mettere in difficoltà sempre di più delle pratiche attraverso cui costruire dei percorsi di lotta e dei conflitti, pratiche minime che però sanzionate in maniera così dura alla lunga probabilmente incontreranno ancor più difficoltà a riuscire a svilupparsi e a prendere corpo. Certo, diciamo che si potrebbe leggere un preciso intento politico, nel senso che sembra che la repressione non sia guidata da un intento, diciamo, legato semplicemente a far rispettare delle leggi, quanto a eliminare o colpire quelle insorgenze sociali, quei momenti di organizzazione e di lotta che più danno fastidio al sistema dominante. Questo, diciamo, negli ultimi anni credo che sia abbastanza una lettura che si può fare insomma in maniera abbastanza evidente. Quindi non è la illegalità delle pratiche che viene colpita, ma quanto il fatto che poi l'efficacia, quindi queste pratiche, diano effettivamente fastidio. Pensiamo appunto al picchetto, che appunto relativamente, che può essere una pratica relativamente di stampo diciamo richiudibile in una questione criminale, ma che è stata fortemente repressa in diverse città, così come è stata repressa la lotta contro i CIR, la lotta contro i picchetti per quanto riguarda anche la questione della logistica o la TAV. Quindi c'è stato proprio un orientamento della magistratura a colpire quelle che sono le lotte più efficaci, che comunque potevano essere un punto di organizzazione più forte, più evidente. E beh, in questo mi sembra, scusami, volevo solo una cosa, scusa, ti lascio subito la parola. Mi sembra che la magistratura di Torino in questo, diciamo, abbia avuto un ruolo abbastanza trainante, cioè che negli ultimi anni sia stata la magistratura più all'avanguardia nel fronte repressivo, anche nel tentativo di introdurre nuove pratiche repressive, nuovi livelli di repressione. Insomma, sembra un po', diciamo, proprio la procura che fa il ruolo di lepre per la repressione, cercando di introdurre un livello di repressione sempre più alto e adeguato a quelli che sono i livelli, diciamo, le pratiche di conflitto sociale diffuse. Adesso entrare a iniziare a ragionare su gli equilibri e le dinamiche che si svolgono all'interno del tribunale è sicuramente un discorso molto complicato. È difficile anche avere un po' tutti gli elementi per potervi ragionare. Si può dire che quello che è cambiato poi di fatto, almeno per quello che abbiamo potuto vedere noi, non è tanto il ruolo poi l'attività, le pretese della procura, quanto piuttosto quelli che sono diciamo gli equilibri all'interno della sezione dei giudici delle indagini preliminari e poi dei giudici del riesame. Ciò che ha fatto la differenza rispetto al proliferare di queste misure cautelari è quello, perché insomma che la procura richieda arresti domiciliari o altre misure ogni 3x2, ogni volta che se ne presenta l'occasione, tutto sommato rientra abbastanza nella normalità, fa il suo lavoro. Quello che succedeva almeno fino a qualche anno fa, un po' tutti quelli, i compagni, le persone coinvolte nelle lotte avranno insomma modo di ricordarsene, è che a fronte di richieste abbastanza eccessive da parte della procura, in genere queste richieste venivano per lo più cassate. Quello che sta succedendo invece oggi al Tribunale di Torino è che quasi sistematicamente le richieste fatte dalla procura vengono accolte dai giudici delle indagini preliminari e poi confermate in sede di riesame, cioè al primo momento di verifica di queste misure. È questo un po' che sta facendo la differenza. Ora, come si sia potuto determinare, diciamo, questo cambiamento di equilibri sarebbe un discorso molto complicato. Di certo, secondo me, in tutto ciò ha pesato sicuramente la lotta no TAV e quello che è successo in Val Susa. Cioè lo Stato si è trovato a doversi organizzare per affrontare comunque un conflitto che ha dato e continua a dare molti grattacapi alle autorità, un conflitto legato a un'opera dagli interessi, come tutti sanno, enormi. E una delle cose sicuramente su cui ha dovuto lavorare è quello di riuscire in tribunale a ristabilire degli equilibri che consentissero alla macchina della giustizia di lavorare in fretta sulla conflittualità sociale. Questo in questo momento si vede in Val Susa, dove anche lì le misure cautelari piovono con gran, ce ne sono parecchie, e questa è una ricaduta poi su tutte le situazioni che a Torino e dintorni provano a costruire lotte, a iniziare dei percorsi di lotta. Certo, e senti, invece, dicevamo, nonostante insomma la non gravità di queste misure, mi sembra appunto che questa volta ci sia stata una riflessione e un tentativo da parte dei compagni colpiti di cercare di invertire un po' la rotta, nel senso che di non fare l'abitudine, diciamo, a queste misure che comunque stanno da parecchi anni colpendo diversi compagni, appunto, dicevo, anche al di fuori della situazione torinese. Che si sia fatto un po' il punto della situazione, questa è l'impressione, e che si sia deciso una volta tanto di puntare i piedi, quindi di dare una risposta, diciamo, quindi di cercare di non accettare passivamente appunto l'applicazione di queste misure, ma di reagire. Ecco, mi puoi quindi raccontare un po' cosa si sta facendo a Torino e anche quali sono le posizioni che sono state assunte dai compagni appunto sotto colpiti dalla repressione? Sì, come dicevamo prima, questi ultimi 12 minuti di dimora sono gli ultimi di una serie ormai lunga, e le caratteristiche di questa misura, per quanto si possano definire lievi, sono comunque notevoli per le lotte. Basti pensare che, come può essere evidente a tutti, con un'estrema facilità da un giorno all'altro ti ritrovi a dover impostare dei percorsi, a fare delle cose con 12 compagni in meno, che è una roba che crea evidentemente molte difficoltà. Basti pensare che la durata di queste misure cautelari è doppia rispetto a quella delle misure detentive, cioè se per un reato di violenza privata puoi stare in carcere 3 mesi in preventivo prima di arrivare a un processo, il foglio di via, il divieto di dimora ne dura 6. Per altri tipi di reati i tempi sono più lunghi. A noi è capitato che qualche compagna sia stata lontana da Torino in seguito a questi divieti di dimora per 2 anni e mezzo. Quindi immaginiamo le difficoltà che tutto questo può creare, o questa strategia, diciamo, a bassa intensità può creare dei percorsi di lotta. Quindi se fin dall'inizio, dalle prime ondate di inchieste, di misure cautelari, noi abbiamo sempre continuato a sostenere che il miglior modo per far fronte, per provare a reagire all'inchiesta giudiziaria, alla repressione giudiziaria, è quello di continuare le lotte, perché è quello l'unico modo per riuscire, a nostro parere, a creare dei seri problemi alle autorità e per far pesare il meno possibile poi le inchieste, le misure cautelari. Oggi comunque ci rendiamo conto che per continuare, che la possibilità di continuare le lotte passa anche dal contrasto, dal provare a puntare i piedi, a mettersi in mezzo rispetto a questa strategia della procura, perché se con la facilità con cui l'ha fatto finora in tribunale continueranno a dare divieti di dimora e misure cautelari simili nei prossimi mesi, è evidente che le difficoltà qui per riuscire a conseguire questo lotto saranno enormi. Quindi diciamo, questa volta abbiamo voluto soffermarci parecchio su a ragionare su cosa fare rispetto a queste misure cautelari. Abbiamo deciso di costruire una mobilitazione di una decina di giorni in cui ci sia un'iniziativa al giorno per ribadire che noi non vogliamo andare via da questa città, non vogliamo abbandonare le lotte in cui siamo impegnati, non vogliamo che lo facciano i compagni che sono stati banditi da Torino, e quindi è iniziata questa campagna. C'è un calendario che, se qualcuno è interessato, può vedere sul sito di Macerie, che è iniziata l'altro ieri con un'assemblea pubblica nella sede di Radio Blackout, che continuerà oggi. In questo momento siamo proprio al presidio contro i divieti di dimora in Corso Vercelli, vicino alla sede di Radio Blackout, alla sede dell'asilo occupato, e continuerà con vari appuntamenti nei prossimi giorni. Poi se, come dicevi, vi collegherete insomma con Radio Blackout nei prossimi minuti, beh, diciamo che ci saranno, da questo punto di vista, delle sorprese. I banditi, i compagni banditi da Torino avranno qualcosa da dire a tutti. Bene, quindi siamo incuriositi per il momento, quindi ti ringraziamo intanto per questi aggiornamenti, per averci fatto il quadro della situazione. Come hai anticipato tu e anche noi in precedenza, ci collegheremo a breve con Radio Blackout per sentire un po' che si dice lì a Torino, e per questo motivo interrompiamo intanto questa chiacchierata, eventualmente poi la riprenderemo per alcuni commenti, e diamo un saluto a tutti i compagni lì presenti. Quindi un saluto a tutti. E per adesso, okay. Ciao, adesso, a presto. Adesso invece ci prendiamo un piccolissimo stacco musicale e poi torneremo di nuovo in collegamento con Torino. Oh, cinnamon, where you gonna run to? Cinnamon, where you gonna run to? Where you gonna run to all on that day? Will I run to the rock? Please hide me, I run to the rock. Please hide me, I run to the rock. Please hide me, Lord, all on that day. But the rock cried out, I can't hide you, the rock cried out. I can't hide you, the rock cried out. I ain't gonna hide you down. All on that day, I said, Rock, what's the matter with you, Rock? Don't you see I need you, Rock? Lord, Lord, Lord, all on that day. So I ran to the river, it was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding, I ran to the sea. It was bleeding. the river. It was boiling around the sea. It was boiling around the sea. It was boiling all on the bay. So I ran to the Lord. I said, Lord, hide me. Please hide me. Please help me all on that day. He said, child, where were you when you ought to have been praying? 16 e 5 minuti primi, siete all'ascolto di Radio Onda Rossa, questo è Silenzio Assordante, appunto come annunciato poco fa durante la corrispondenza con il compagno di Torino. Vi abbiamo già detto che rilanceremo il segnale di Radio Blackout, radio torinese, nello specifico del programma Macerie. Con loro cercheremo di aggiornarci in diretta riguardo la mobilitazione contro i divieti di dimora nei confronti dei compagni e delle compagne impegnati nella lotta contro i CIE. Buon ascolto. E ricordiamo un attimo anche i contatti per mettersi in contatto con noi, scusate il gioco di parole. Il numero mobile è 346-6673-263 per mandare dei messaggini, appunto come ciste che è appena arrivato, oppure per fare squillini. E il telefono fisso 011 24 95 669. Ricordiamo che siete all'ascolto di Radio Onda Rossa e che stiamo rimandando il segnale di Radio Blackout, la radio torinese. E come avrete notato, tra i saluti iniziali ho scordato di salutare la mia corredattrice, che dovrebbe essere allontanata da Torino con i divieti di dimora. Mi sono scordato di salutarla perché è qua con me. Ciao Luigi, e un buongiorno, anzi un buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Blackout da Francesca. E sì, nelle ultime settimane sono stata assente per colpa delle carte tribunalizie che mi hanno costretto ad allontanarmi da Torino. Ma non sono riuscita a tenermi lontano troppo a lungo e infatti sono qua violando questa misura e non sono sola. Ebbene sì, perché i banditi da Torino sono diventati banditi a Torino. Sulla violazione di questa misura andremo a parlare per la prossima ora. Tra letture di queste carte, mobilitazione, appuntamenti, solidarietà. E dopo qualche nota noise andiamo un po' a parlare con uno dei miei compagni in questa violazione, sempre colpito da divieto di dimora. Ciao Daniele. Ciao a tutti e a tutte. Niente, siamo appena tornati, siamo ben contenti di essere tornati a Torino, città dove vogliamo stare, continuare a stare il più possibile. Dopo appunto un giretto che ci ha portato fuori Torino, abbiamo deciso appunto di violare questa misura, essere qui, cominciare oggi trasmettendo in radio per far sapere a tutti appunto che siamo tornati. La cosa che ci tenevo a dire appunto che siamo qui adesso, sta praticamente cominciato da pochi minuti un presidio ai giardini ex GFT in Corso Vercelli. questo è un appuntamento che poi al quale seguiranno altri appuntamenti fino al 19. Ci tenevo appunto cioè il calendario è fitto, però ci tenevo a ricordare appunto che domenica ci sarà alle 16 in corso Brunelleschi il presidio sotto le mura del CIE. Il 14, quindi martedì mattina, è stato fissato l'udienza di riesame, quindi per quell'occasione appunto è stato indetto un presidio alle 9 di fronte al tribunale. E il 18, quindi sabato prossimo, ci sarà il corteo che dalle 16 partirà da Piazza Castello. Ora volevo lasciare il microfono a Larry per cominciare a leggere il comunicato che fresco fresco abbiamo appena scritto. È a Torino che abbiamo visto portar via uomini e donne perché non avevano un documento. A Torino abbiamo visto la polizia caricare un corteo di operai che avevano osato ribellarsi. A Torino abbiamo visto le pattuglie dei carabinieri aiutare i padroni e le banche a sbattere in strada i nostri vicini di casa in ritardo con l'affitto o con il mutuo. A Torino abbiamo visto interi quartieri trasformarsi secondo le esigenze dei ricchi sulla testa dei più poveri che li abitano. A Torino, nelle sue valli, abbiamo visto la celere bastonare le persone accampate a difesa della terra in cui vivono. Ma a Torino abbiamo anche visto decine di persone sollevarsi per permettere a un clandestino di scappare a un controllo e centinaia di facchini tener testa a chi li voleva cacciare dai cancelli del CAT. Qui abbiamo visto intere vie chiuse dai cassonetti per respingere un ufficiale giudiziario e decine di abusivi riprendersi la piazza sotto gli occhi impotenti della polizia. È a Venaus che le stesse persone bastonate hanno rialzato la testa e spazzato via plotoni di celere riconquistando il terreno perduto. Se è vero che ovunque sopruse e ribellioni sono all'ordine del giorno, è a Torino che noi abbiamo deciso di coltivare un sogno comune. Puntiamo i piedi, qui vogliamo rimanere, qui vogliamo lottare. 12 divieti di dimora a chi in una giornata di ottobre era andato presso la sede di Ladisa, ditta fornitrice dei pasti all'interno del CIE di Corso Brunelleschi, a restituirgli un po' della merda che quotidianamente somministra ai reclusi. Un'iniziativa all'interno di un percorso di lotta contro il CIE e contro chi lo fa materialmente funzionare. Sono anni che la procura ci colpisce, incarcerando e allontanando i nostri affetti. Abbiamo tenuto duro, giorno dopo giorno, affrontando la paura e il dolore che la repressione porta con sé. Abbiamo portato avanti con fatica le lotte dei compagni allontanati, incarcerati e sorvegliati. E se in tutti questi anni di lotte a Torino abbiamo affrontato gli attacchi repressivi, cercando sempre di spingere un passo più in là i percorsi che si stavano portando avanti, questa volta ci siamo guardati e negli occhi di ognuno abbiamo ritrovato la medesima voglia di non partire. Questi 12 divieti di dimora sono la goccia che fa traboccare il vaso. Non siamo più disposti a razionalizzare la nostra rabbia. Non accettiamo più di dover salutare compagni affetti perché costretti ad andarsene. Non accettiamo più che le nostre vite, la nostra quotidianità siano determinate da un pezzo di carta. Non accettiamo più di rinunciare ai progetti che ognuno di noi ha costruito in città e di doverci reinventare altrove. Restiamo qui. Esattamente nel punto in cui le nostre coscienze ci costringono a stare. Per noi questi divieti di dimora sono carta straccia. Saremo in una radio libera a trasmettere davanti alla porta di Jay per resistere al suo sfratto, sotto le mura del CIE per sostenere le rivolte dei reclusi, nelle strade per opporci alle deportazioni, ovunque ci andrà di stare. Le conseguenze le conosciamo. Con una certezza quasi matematica, tra qualche giorno ci porteranno in carcere, precisamente nel punto in cui il tribunale avrà la forza di metterci, nel centro esatto del ciclone che sta stravolgendo le nostre vite. Consapevoli della nostra scelta, forti della solidarietà che non ci lascerà soli, noi da qui non ce ne andiamo. E dopo la lettura di questo comunicato di violazione delle ennesime misure cautelari piovute sopra i compagni che lottano in questi quartieri, ricordo, come diceva prima Daniele, che c'è un presidio che sta iniziando ora ai giardini ex GFT in Corso Vercelli, a cui fra poco ci uniremo subito dopo la trasmissione. Ma Ora vi lasciamo un po' di musica con i Clash, che nel 1981 scrivevano questa canzone. Chissà, secondo dicevano che se me ne vado ci saranno tanti casini, ma se resto ce ne saranno il doppio. A che cosa pensavano? Sicuramente non a questo, ma queste parole sono sicuramente calzanti in questa situazione. Quindi vi lasciamo con i Clash, Should I Stay or Should I Go? To let me know, should I stay or should I go? If you say that you are mine, I'll be here till the end of time. So you got to let me know, should I stay or should I go? It's always tease, tease, tease. You're happy when I'm on my knees. One day is fine, the next is black. So if you want me off your back, well come on and let me know, should I stay or should I go? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So come on and let me know. This indecision's bugging me. Indecision, me molesta. If you don't want me, set me free. Set me careless, you got me. Exactly whom I'm supposed to be. Don't you know which clothes even fit me? Come on and let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Should I stay or should I go now? If I go, there will be trouble. And if I stay, it will be double. So you gotta let me know, should I cool it or should I blow? Should I stay or should I go now? Dopo questo brano dei Clash che stavamo ascoltando da radio Blackout, prendiamo di nuovo la linea da radio Onda Rossa. Ricordo che ci eravamo collegati con radio Blackout per degli aggiornamenti sulle iniziative contro i 12 divieti di dimora che erano stati dati dai compagni per la lotta contro i CIE. Abbiamo avuto la fortuna di ascoltare una dichiarazione che hanno fatto in diretta proprio questi 12 compagni, che quindi hanno rotto il divieto di dimora a Torino e si sono recati presso la sede di Radio Blackout per annunciare che non avrebbero accettato il divieto di dimora e che avrebbero continuato a stare in città, continuato a portare avanti le lotte, fatto che con tutta probabilità porterà poi all'arresto di questi compagni, visto che appunto il divieto di dimora è una misura alternativa al carcere, e quindi rompendolo ci si mette consapevolmente nella posizione di essere arrestati. Ma questo viene fatto appunto come forma di lotta e di protesta di fronte al proliferare di misure alternative al carcere, misure che di fatto bloccano le lotte e impediscono ai compagni di portare avanti non solo le lotte ma anche una vita normale in queste città. Questa, diciamo, è un po' la situazione che volevamo illustrare. Forse un commento da fare è quello che di fronte alla repressione non si può semplicemente tirare innanzi quando, diciamo, la repressione acquisisce un certo livello e arriva a bloccare completamente una lotta, a distruggere una situazione di lotta, ma è necessario dare delle risposte. Quindi questo è un tentativo che i compagni di lì stanno facendo per dare una risposta, per poter andare avanti a lottare, perché la repressione è molto forte, alla faccia di chi commentando poi sui social network spesso pensa che in Italia non esista una repressione contro i movimenti sociali e che, insomma, in qualche maniera siano protetti e non colpiti. Invece chi ascolta la radio deve sapere che non è affatto così. Ci sono tantissimi compagni non solo in prigione ma anche che soprattutto colpiti da misure appunto che gli impediscono di fatto, anche se non sono arrestati, di lottare, di partecipare alle lotte con la loro presenza. E penso che sia importante anche rispetto alla città di Roma fare tesoro di questo e fare una riflessione su questo, perché le stesse dinamiche che da anni stiamo documentando rispetto alla situazione di Torino o altre si stanno comunque cominciando ad applicare anche qui nella capitale. Infatti recentemente, appunto, lo dicevamo all'inizio, sono stati distribuiti tutta una serie di misure di carattere amministrativo, quale l'avviso orale che diversi compagni un po' a macchia di leopardo appartenenti a varie aree hanno ricevuto. Addirittura a qualche compagno è stato proposto per la sorveglianza speciale, che è una misura estremamente rigida che può essere applicata appunto, che toglie di fatto la persona da qualsiasi possibilità di lottare ma anche da qualsiasi possibilità di avere una vita sociale di fatto. E non c'è stata ancora una risposta, però siamo all'inizio rispetto all'utilizzo di queste pratiche, quindi penso che sia importante prendere coscienza e anche rendersi conto della necessità di reagire, perché se le lasciamo passare, se ci abituiamo, poi ovviamente si arriverà a un punto in cui non sarà più possibile fare neppure un volantinaggio. Ricordiamo che le misure, diciamo, date a Torino a questi compagni sono state date per fatti di lievissima entità, quali semplicemente un disturbo nei confronti di una ditta responsabile di dare dei pasti avariati all'interno dei CIE, quindi senza gravi fatti di violenza o gravi situazioni particolarmente eversive, ma per semplici, diciamo, lotte con le stesse caratteristiche delle lotte che si portano avanti ogni giorno. Quindi se accettiamo questo vuol dire che non avremo più spazio, nessuno spazio di agibilità e di movimento con le pratiche di cui siamo, scusatemi per la confusione, con le pratiche che siamo abituati a utilizzare normalmente. Ecco, questo era tutto per quanto riguarda Torino. Poi se ci saranno aggiornamenti in seguito ci aggiorneremo anche noi, porteremo poi a conoscenza di come si sta evolvendo la situazione. Ci prendiamo uno stacco musicale perché è un bel pezzo che stiamo parlando e trasmettendo. Quando torneremo in studio invece affronteremo la situazione di Barcellona, un collegamento da Barcellona, come avevamo già detto, che riguarda l'apertura del nuovo CIE e le lotte in solidarietà con chi buca le frontiere che si stanno tenendo nella città catalana. Quindi ascoltiamoci un po' di musica e a presto su Radio Onda Rossa.